Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mi dispiace moltissimo per la Ferrari, mi dispiace per Vettel, mi dispiace soprattutto per Leclerc, perché per un pilota è veramente dura fare la pole e vincere l'anno prima e poi arrivare l'anno dopo e non riuscire neanche a fare tra i primi 10, ecco. È una situazione veramente frustrante. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oh, maronna mia, io non sapevo, me l'hanno detto. Dice che è risultato positivo. E mo ma già fa. Come si chiama là? Tambù. Tambù. Io già ne ho già fatte 3-4, uno in più, uno in meno. Che devo fare? Perché no, lì ci siamo avvicinati, abbracciati, e questo e quello. Il drino né mascherina né niente. Io la mascherina la tenevo solo simbolicamente, così sotto. Però facciamo un augurio a De Laurentiis, al caro amico, perché posso continuare in questo impegno, soprattutto in un periodo particolare anche per lui, per la squadra, perché la squadra sta passando momenti un po' anche delicati. Beh, carissimo Pier, non so come la pensi tu, ma io affiderei al cardinale Seppe l'editoriale sulla vicenda De Laurentiis. Sì, vabbè, vedo che il tema continua. Ho mascherina, la tenevo, ma simbolicamente. Simbolicamente, no, la mascherina va tenuta, lo ricordiamo, almeno questa è la mia idea, insomma, lo dicono gli scienziati, non certo io che non conto nulla. Diciamo che va tenuta, appunto, per la propria salute e per senso di responsabilità nei confronti di tutti. Quindi, e poi per il resto, perché hai dato, in bocca al lupo a tutti, perché nessuno deve star male, quindi. Sull'imboccalupo sono d'accordo, sì, sul simbolicamente della mascherina, vabbè. Va bene, allora 800-24-0024, numero verde per intervenire in diretta fino alle 15, 349-238-6666, sms, whatsapp, anche vocali. Diamo notizia che sono tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti ieri i giocatori del Napoli, lo ha preso l'ANSA da una fonte qualificata del club. Ovviamente il tema era diventato di strettissima attualità. Dopo la positività del presidente De Laurentiis c'era il timore di altri contagi, anche se in realtà già noi ieri vi avevamo raccontato che De Laurentiis non aveva contatti con la squadra ormai da diversi giorni. In ogni caso tutti negativi e dunque si gioca regolarmente questa sera al San Paolo ore 18 l'amichevole contro il Pescara. Saluto Federico Ferri, ciao. Ciao Giovanni, ciao Pier. Direttore di Sky Sport, reduce dalla maratona di presentazione del palinsesto autunno-inverno, e di fatto questo è il venerdì che apre al weekend, che fa partire tutta la stagione. È vero che manca ancora una settimana al campionato, ma insomma, per mille ragioni da qui in poi si fa sul serio. Pier, mi dai il tuo radio tweet? Sì, Higuain che ormai insomma è pronto a lasciare il nostro calcio. Sono stati anni intensi, anni di polemiche, di grandi amori, di grandi tradimenti per qualcuno, di grandi riappacificazioni, di cadute, di salite. Insomma, però Higuain è stato veramente un grande del nostro calcio, è stato un giocatore in questi anni, credo 165 gol, 317 partite tra Napoli, Milan, parentesi breve e non straordinaria, e gli anni alla Juve, prima e dopo, insomma, però è stato un grande, ecco, è stato un pelo sotto i grandissimi, ma veramente. Se il calcio italiano in questi anni ha tenuto in qualche modo, secondo me ci sono dei segnali di reputazione internazionale e di crescita con alcuni giocatori che possono arrivare di livello importante, anche perché c'è stato uno come lui che ci ha fatto divertire, comunque la si voglia vedere, insomma, ovviamente poi i tifosi del Napoli ci sono divertiti molto, quelli della Juve pure, gli altri un po' meno, ma è stato veramente un grande giocatore, per me è nella categoria dei grandissimi, proprio mezzo metro sotto i fuori classe, mezza tacca sotto i fuori classe assoluti, ma grandissimo giocatore tecnicamente, realizzativamente, Sì, autore del record, poi pareggiato da Immobile. Esatto. Però il paradosso, Federico, dai, partiamo da qui. Il paradosso è che i tifosi del Napoli si sono divertiti tantissimo, ma non hanno vinto praticamente nulla. Quelli della Juve con Higuaín hanno vinto, così come avevano vinto prima e come hanno fatto anche dopo senza. Però io non so se si può esprimere un giudizio pienamente positivo 4 anni dopo a tutta l'operazione Higuaín per la Juve, Federico. Mettendo tutto insieme, i gol fatti, le stagioni via, anche la minusvalenza che la Juve fa dovendo rescindere un anno prima. Beh sì, dal punto di vista economico il finale non è il miglior finale possibile. Però io sono d'accordo con Pierre. Io credo che siamo di fronte a un giocatore che potremmo definire fuori classe assoluto, come tecnicamente è, magari con una finale andata diversamente in più, o di Champions o del Mondiale. Però siamo di fronte la finale, per quanto ci riguarda da osservatori italiani, è quella di Cardiff. No? Quella di Cardiff io, per quanto riguarda la carriera di Higuaín, parlo anche quella dell'Argentina mondiale, ovviamente. Certo. Anche una responsabilità, perché ha avuto una palla gol clamorosa. Esatto. Proprio a questo mi riferivo. Però stiamo parlando di un attaccante, questo è un centravanti, ed è stato straordinario. Io non credo che però si possa parlare di investimento sbagliato da parte della Juventus, perché quando al primo anno con un giocatore così importante vinci il campionato e vai in finale di Champions, insomma non credo che si possa parlare di questo, e anche per quello che ha fatto successivamente. Quello che va detto è che c'è forse un rammarico nel percorso di Higuaín alla Juventus, che si sono andati a incrociare 3 giocatori, compreso Dybala, ovviamente il primo è Ronaldo, che potevano fare qualcosa di più, certamente potevano essere un tridente e non lo sono stati, o forse tecnicamente non lo potevano. Una cosa certamente l'abbiamo vista, cioè Cristiano Ronaldo con Higuaín poteva essere una grande coppia, e forse così alla Juventus non lo sono mai stata, come l'abbiamo vista al Real ad esempio. Sì, non c'è stato il tempo, non si è creato il contesto, perché per realtà sì, c'è anche chi ci ha lavorato su dal punto di vista tecnico e tattico. Un po' il discorso che facevamo l'altro giorno con Zazzaroni sugli Stantista, cioè comunque Higuaín è arrivato a un certo punto, è arrivato con la clausola, aveva credo 29 anni quando è arrivato, se non ricordo male, lui 87. Sì, 29 anni, e quindi è stato 2016. La Juve lì ha fatto l'investimento su un giocatore non più giovanissimo, per vincere, ha ragione Federico, cioè fai comunque la differenza tra una Coppa dei Campioni alzata o una grande delusione, la fa una partita tutto sbagliata, anzi in specifico lo fa un secondo tempo inguardabile come quello di Cardiff, è una sconfitta nettissima. Quindi poi il calcio è fatto anche di questo, il calcio è fatto anche di episodi e di situazioni. È chiaro che nel momento nel quale vai a fare un investimento su un ragazzo che non ha 22-23 anni, fai un investimento in cui non è soltanto il caso di Higuaín, rischi che poi a un certo punto ti troverai un po' col cerino in mano, e questo è quello che è successo, perché Higuaín sicuramente è calato in 2 anni, inutile nasconderlo, anche se quest'anno poi la prima parte della stagione era stata positiva. Però insomma, ripeto, secondo me sono nettamente di più gli elementi di forza e positivi di quello che ha dato negli anni di Napoli soprattutto, ma anche alla Juve. Sì, su questa cosa degli instant team c'è spazio da discutere, e lo faremo ancora anche nei prossimi giorni. È la scelta del calcio italiano in larga parte, in altri campionati chi sta spendendo qualcosa fa delle scelte differenti. Questo, come detto, è il weekend che apre davvero la stagione. Abbiamo avuto l'aperitivo nello scorso fine settimana con le nazionali, tra l'altro un aperitivo dolcissimo per noi italiani. Per il campionato dobbiamo aspettare, no Federico, ancora una settimana, ed è difficile anche fare le carte in questo momento al campionato. Però domani riparte la Premier League, e ripartendo la Premier League, che è la vetrina globale del calcio europeo, possiamo dire che si rimette tutto in moto, no? Sì, assolutamente. Beh, poi siamo nel momento in cui, non so se è così anche per voi, ma da appassionati di calcio come vi conosco sicuramente, è proprio il momento in cui se da appassionato senti l'attesa più grande, cioè è proprio quelle giornate che precedono le prime partite che che anche se è passato così poco tempo dalla stagione precedente, comunque è sempre uguale, perlomeno per me fa sempre lo stesso effetto. Le nuove squadre, le nuove maglie, i nuovi colori, per non parlare della Premier, che da questo punto di vista ha anche questo fascino di aprire. Poi quest'anno, lo diciamo tutti gli anni, il campionato straordinario. A me è mancato un po' l'anno scorso la competitività di questo campionato. Ecco, se c'è una cosa che mi auguro della Premier di quest'anno è che torni l'NBA del calcio europeo, cioè torni quella competitività straordinaria che ti porta un anno a vedere vincere City, un anno a vedere vincere la sorpresa all'Leicester, un anno a vedere vincere il Liverpool, un anno a vedere vincere il Chelsea, e quest'anno quasi tutte le squadre che ho citato possono vincere, e quindi sarà un campionato pazzesco, sarà un campionato pazzesco, e da domani ce lo godiamo. Guarda, io mi sono già segnato domenica ore 17:30 Tottenham Everton, Mourinho contro Ancelotti, noi saremo qui in diretta, ma la seguiremo. Poi c'è Bielsa con il Leeds, scherzi, altro personaggio non banale insieme a tutti gli altri, Klopp, Guardiola, e insomma tutto quello che ci porta il calcio inglese. Oh, Federico, mi dici la tua sulla storia di De Laurentiis? Adesso, al di là della vicenda della positività, ne abbiamo parlato ampiamente ieri e abbiamo detto che cosa ne pensavamo. Certamente oggi trovare sulle prime pagine quella cosa lì, nel momento in cui si riparte, si spinge per riaprire gli stadi, è stato attivato un cortocircuito un po' difficile da governare per il calcio italiano, cioè un po' come partire con il freno a mano tirato indietro. Sono parzialmente d'accordo, nel senso che per prima cosa è una cosa che va completamente depurata dal tifo, perché se c'è una cosa che mi fa veramente schifo in questo periodo è questa abitudine di giudicare anche le questioni che non c'entrano niente con il calcio direttamente con la lente del tifo, che è una cosa orribile, a maggior ragione poi in casi come questo. Comunque, detto questo, io penso che è una questione che appartiene a molti ambiti lavorativi in questo periodo. Sentirsi, non dico invincibili, ma comunque sottovalutare la pericolosità della situazione che stiamo ancora affrontando, che è quella del Covid, per partecipare a una riunione in più, per fare una vita, diciamo, normale, sottovalutando dei rischi. Questo è quello che è accaduto. Non è una questione che riguarda il calcio, se non fosse che ovviamente in quella sala c'erano tutti i presidenti. C'era tutto il calcio, è chiaro. Della Serie A, ovviamente, e non è una cosa da poco. E almeno la metà vengono definiti, descritti come irritati, per usare un eufemismo. In relazione al mondo del calcio, se posso, che c'è stato un comportamento, diciamo, quantomeno leggero, per non dire decisamente poco responsabile, e fuori di dubbio, è inutile aggiungerlo. C'è un punto però che secondo me è importante in generale, anche riguardando proprio l'aspetto tecnico delle questioni riguardanti il coronavirus nel calcio. I calciatori sono abituati a fare ormai da mesi dei controlli che possiamo definire routinari, cioè dei tamponi routinari. Evidentemente questo tipo di controlli non prevedono isolamenti, no? Cioè si fanno i controlli, sanno di essere sani, continuano a controllarsi per verificare che lo siano, facendo uno sport di contatto che prevede appunto la vicinanza tutti i giorni con compagni di squadra ed avversari. Controlli routinari. Questo aspetto è molto importante, perché chi sta intorno a loro è vero che fa controlli routinari, ma è molto diverso il tampone di verifica quotidiana per chi fa quel mestiere rispetto al tampone se si è a rischio, se si è stati a contatto con un contagiato. È molto diverso, quindi attenzione, perché il tampone che si fa in emergenza, che si fa perché ti hanno avvisato che vicino a te c'è un positivo, quello sì che richiede l'isolamento fiduciario, e questo è molto diverso. Quindi anche intorno al mondo del calcio, con questa frequenza di controllo di tamponi, bisogna fare molta attenzione a non sottovalutare la portata del momento in cui invece pensi, sospetti di avere un sintomo oppure addirittura di essere stato a contatto con qualcuno con che, un positivo che il Covid l'aveva, certo. Lì sì che bisogna stare chiusi in casa. Questo no, non è stato fatto. Il massimo abbiamo letto momento. Qualcosa a proposito di un dirigente del Napoli adesso, ma non per tornare su, che è positivo da qualche giorno. Ma chiunque sia, non lo sappiamo chi è. Anche perché la banalità proprio in senso tecnico di questo contagio è totale. E quindi poi voglio dire. Qui siamo in una sfera di contagio, per quello che abbiamo capito dagli scienziati, che è talmente banale, dove veramente tutti puoi intestare al bar. Cioè non, io rimuoverei il senso di colpa, la parola colpa, proprio da questo contesto in assoluto. È importante avere i comportamenti giusti sul piano delle precauzioni. Cioè, sicuramente la mascherina va indossata, poi cioè, quando la indossi prendi un rischio e stai con un rischio anche agli altri. Su questo non c'è discussione, ma al tempo stesso io non, quando mi dicono che l'altro giorno De Laurentiis ha avuto la febbre misurata sei volte sì. E non posso non crederci, perché immagino che a Lilton mancherebbe entrato, ecco. Ah, ma confermo. quando è sceso a Linate o a Malpensa in aeroporto gliel'abbiano misurata, a Napoli entrando in aeroporto gliel'hanno misurata, quindi francamente probabilmente quel sintomo lì non è un sintomo così decisivo, questa è la verità, insomma, per cui puoi magari non avere la febbre, svilupparla dopo per essere già positivo, insomma è un discreto casino. L'invito perché poi tanto quello che conta di più è il comportamento quotidiano a non abbassare la guardia. Poi se De Laurentiis ha usato o no tutte le precauzioni necessarie, questo è un dibattito che mi appassiona veramente fino a un certo punto. A indossare la mascherina non simbolicamente. Federico, esatto. ci racconti di Sandro Piccinini? No, perché ho il telefono intasato di notifiche sui social perché Piccinini va a Sky. Altro che calciomercato, Vidal, Suarez, sono piccolezze. No, io ho il privilegio di fare questo straordinario lavoro, anche di potermi confrontare con tanti professionisti straordinari e qualcuno magari di riuscire anche a andare a prenderlo sul mercato. Piccinini è una novità della stagione di Sky Sport che appunto abbiamo presentato oggi. È un ritorno per lui perché si era preso un periodo sabbatico, dopo mi ha raccontato quando siamo incontrati 40 anni di lavoro consecutivo. L'abbiamo convinto a tornare, sarà protagonista degli studi tutte le domeniche sere su Sky Sport nel post partita del posticipo, quindi nel nostro club con Fabio Caressa, Stefano De Grandis, Daniela Setti e tutti gli altri ospiti che solitamente frequentano quel club, ovvero Marcheggiani, Di Canio, Bergomi, Costa Curta e poi Capello, insomma tutti quelli che fanno parte di quella squadra. Però Sandro Piccinini sarà per questa stagione, per una stagione, ospite fisso e volto del club, e siamo sinceramente molto orgogliosi perché lo riteniamo un fuoriclasse di questo mestiere, e soprattutto riteniamo che sia molto amato anche dal nostro pubblico. Sì, prestito con diritto di riscatto. Aggiungo, oltre all'imbocca al lupo che faccio a Fabio, ovviamente a Sandro, a Federico, prima o poi lo chiamiamo. Che è anche un ritorno romantico, perché insomma Caressa e Piccinini, insomma soprattutto chi ci sta ascoltando da Roma e dintorni, insomma è una storia. Io ero un bambino, Picci era già un po' più cresciuto, Caressa era un adolescente, ma insomma più o meno era questo, è iniziato tutto lì. Esatto. Lo hanno ricordato poco fa proprio quando abbiamo presentato Sandro a Sky Sport, questo legame professionale che nasce nel 1987, quindi ci sono storie che ritornano, soprattutto quando c'è questo grande talento, questa grande capacità di continuare a essere contemporanei, a rinnovarsi e a piacere alla gente, che poi è la cosa più importante. E se posso aggiungerti altre due novità, sì, abbiamo presentato anche oggi due volti che sono di Sky, profondamente appartenenti alla squadra di Sky, che cambiano ruolo, perché Anna Pillò condurrà lo studio di Champions League per la prossima stagione e Leo Di Bello condurrà l'Europa League. E abbiamo anche rivelato, perché ogni anno ce lo chiedono in questo periodo e abbiamo ormai un appuntamento fisso, quale sarà la storia di Federico Buffa, che tutti i Natali ormai è un appuntamento fisso da più di 10 anni su Sky Sport, e quest'anno la storia di Federico Buffa sarà la più classica, penso, dell'essere di calcio, perché racconteremo Pelé. quindi non andiamo sul sicuro. Così, ecco, giusto per passiamo dall'estate del tormentone di Messi a Natale con Pelé. Grazie Federico, ciao, grazie, alla prossima. In bocca al lupo e buona stagione a tutti. Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Allora adesso andiamo avanti a parlare di calcio giocato, se vi va. Il sogno che si è avverato è uno dei sogni dei bambini, di tanti bambini. È un sogno che ho sognato e ho messo quella storia perché mi sembrava, diciamo, la perfetta. Era il momento in cui ho lasciato i colori rosso e nero e avevo intrapreso un altro percorso. Adesso ritorno, sono riuscito a ritornare su questa strada e credo che sia un segno questo. Ho deciso di scegliere la numero 8 perché ha un significato sia come centrocampista e sia come centrocampista del Milan, perché ha indossato un giocatore che ha fatto la storia con il Milan. Insieme si può fare tutto, anche le cose impossibili, e questo Milan sarà capace di farlo. Allora, abbiamo con noi Walter Novellino per parlare un po' di calcio giocato. Ciao, ciao. Walter. Ciao. Grande cuore ex rossonero e anche grande allenatore. Walter, siccome ne stavamo parlando prima con Federico Ferri a proposito di Suarez, che perdonami, di Higuain, che chiude la sua parentesi italiana e andrà a giocare negli Stati Uniti quasi certamente, e facevamo un po' il bilancio della sua avventura con la Juventus, ma secondo te Suarez è meglio di Higuain oggi? non lo so, sono giocatori un po' diversi, insomma. Suarez gli piace giocare un po' più su, un po' più rapinatore, gli piace giocare più sull'area. Higuain ultimamente gioca un po' più fuori, insomma, però sono due giocatori, ecco. Higuain nella Juventus bilancio direi so dicono in inglese 50-50. Esatto. Suarez è un giocatore che ha fatto grande cosa, bisogna vederlo in campionato italiano. Il campionato italiano un po' particolare, al di là di questo sono due giocatori secondo me importanti, ecco. Uno, Higuain ultimamente non ha espresso il suo valore, quello che ha fatto alla Napoli. Ha toccato il massimo che doveva toccare. Nella Juventus, ecco, il primo anno mi sembra ha fatto bene, il secondo anno un po' meno, il terzo così, insomma. Suarez è un giocatore che ha qualità, c'ha tutto, bisogna vederlo in campionato italiano. Però nella Juventus è chiaro che bisogna vederlo, insomma. Ecco. Sì, il passato dice che i grandi attaccanti, quando arrivano, spesso accompagnati dal discorso, bisogna vedere se nel calcio italiano riescono a ripetersi almeno come numeri. Poi i grandi giocatori con i numeri, Pier, no, si sono ripetuti. Però se sei d'accordo, andiamo avanti a fare questo gioco, no? Ad esempio, c'è una cosa, secondo me, sì, c'è una cosa da dire, cioè che se ne va un 87 arriverebbe un altro 87, tra l'altro usato sicuro, controllo, andrei Higuain di dicembre e Suarez di gennaio, non vorrei commettere errori, vado a memoria, quindi stesso anno, ma Suarez è ancora più anziano, per così dire, di Higuain. È vero pure però che negli ultimi anni, tu sai, io sono di quelli convinti che Suarez può ancora dare delle cose e sarebbe un grandissimo colpo di mercato. Mi sembra che dal punto di vista proprio della traiettoria di carriera, del numero di gol, anche se non è sicuramente il Suarez di due o tre anni fa, però sia più avanti di Higuain per quello che ha dimostrato nell'ultimo periodo. E poi c'è quell'elemento di ferocia agonistica, di abitudine e anche di cambio di ambiente. Io non penso Suarez verrebbe a svernare. Certo, e poi è chiaro che la storia di Higuain con la Juve è finita, cioè è un ciclo finito. Io sono favorevole all'operazione, detto questo, poi discorso sugli stand-in, se vuoi ve lo facciamo. Cioè, aspetta, fammi chiedere prima a Walter se Vidal è meglio di Nainggolan, che mi piace questo gioco, adesso gliene metto lì 3 o 4. Vidal è meglio di Nainggolan, visto che pare che Nainggolan resti all'Inter. A me piace più Nainggolan, ti dico la verità, al di là di che Vidal è un giocatore straordinario, però Nainggolan... Angolan a me mi è sempre piaciuto, è un giocatore che ha fatto bene sempre, dove è andato. È chiaro che Vidal è un giocatore che ha tutto anche lui, però è più giovane, mi sembra, è più giovane, perché non dargli la possibilità a Angolan di giocare almeno provare con Conte, no? Quello che vale, no? Perché è un giocatore che secondo me, per esempio, a Vicenza a Cagliari ha fatto bene, ha fatto benissimo. È chiaro che Vitale è un giocatore che Conte lo vuole a tutti i costi, però è un po' fermo ultimamente, ecco, secondo il mio punto di vista. 87, sempre la risorsa. Sì, ragazzi, sì, ma 87, per questo li mettiamo 88. Qui. Ne ho un altro che è un po' più giovane, ma, sì, ma Kanté è meglio di Brozovic. Ah. Dai, dai, ragazzi, dai, mi piace. A me Brozovic mi piace, è un giocatore, non so come mai è in discussione, dirti la verità. Beh, ci ha messo anche del suo, eh. Per il suo carattere, stavo arrivando, per il suo carattere, per quello sì, fuori dal campo, fuori dal campo. Però in campo questo è un giocatore di valore, un giocatore che anche l'ultima partita che ha fatto con la Croazia a me mi è piaciuto. Insomma, è un giocatore che ha tutto, c'è il corto, il lungo, al possesso. Kanté invece è un giocatore tipo, ecco, il palombo che avevo io nella Sampdoria, ecco. Brozovic è un giocatore che secondo me ha più qualità di inserimento, ha più qualità di andare a prendere palla, di giocarla. A me piace molto, molto di più, ecco. Pier? Sì, infatti non è una, mentre Vidal Nainggolan è un paragone assolutamente perfetto a tutti, diciamo, del ruolo, delle caratteristiche. Qui esatto, le caratteristiche sono un po' diverse. Kanté, insomma, è un prospetto, poi Conte lo conosce benissimo. È un giocatore, secondo me, nel pieno del suo fulgore, e quindi sarebbe un grande innesto. Però io condivido, cioè io pure sono un po' colpito dall'eccesso di critiche che c'è su Brozovic, anche sul, per carità, lui ha fatto degli errori fuori dal campo, insomma, sappiamo benissimo, due o tre situazioni non edificanti. Però poi io, perché spesso commento l'Inter e la guardo quasi sempre, insomma, mi sembra che il rendimento sia un rendimento buono, e soprattutto è un giocatore che ha un buon mix fra qualità e quantità. A me sembra che l'Inter spesso sia meno di quanto venga detto in giro Brozovic dipendente, cioè se Brozovic gira l'Inter ha una qualità nettamente superiore. Certo, lì in mezzo c'è un bel traffico, c'è un bel traffico anche su Vidal Nainggolan, siamo sì, lì, anche perché potremmo inserire poi il terzo incomodo tra Vidal e Nainggolan, che è Barella, che non è poi un giocatore tanto diverso tatticamente parlando. Barella già c'è, però vi complicavo Barella troppo il lavoro, se lo metto, no, però no, ditemi Barella voi, mettilo da parte. Un giocatore straordinario, forte, sì, è forte, ha spensierato, gioca, si inserisce, lo metti in nazionale, gioca Eden, lo metti da una parte, gioca. A me piace tantissimo Barella, poi è un giocatore che non l'impatto di San Siro non lo subisce assolutamente. Sì, Barella è uno di quei rari giocatori per cui spendi quasi 50 milioni di euro adesso, più o meno, insomma, quello che ha speso l'anno scorso l'Inter, e un anno dopo puoi dire di non essere, non dico pentito, ma nemmeno leggermente perplesso dei soldi che hai speso. Esatto. Non capita spessissimo, questa volta lo diciamo. Secondo me è un Tardelli di nuovo, un nuovo Tardelli, ecco, secondo me. Mi piace come paragone, impegnativo, però mi piace. È impegnativo, stesso impegnativo, ma Barella ha quelle qualità lì, Non penso che Tardelli, se ci sta ascoltando, si offenda, insomma, non è denigratorio per nessuno, anzi, no, io sono d'accordo. Barella per me ha grandi qualità, ci aggiungo appunto la capacità comunque quest'anno di aver dovuto convivere con degli infortuni che non gli hanno certamente semplificato la vita, e ha fatto bene, ma poi la sfrontatezza sicuramente, ha un certo numero di gol nei piedi, ha tante caratteristiche che sono poi importanti. Si è messo a segnare anche di testa, ha permesso a Mancini di giocare con i due mediani, si inserisce alla grande, ha fatto un gol alla grande, sì, insomma. Assolutamente, va bene. Allora, abbiamo la borsa, grazie Walter. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Grazie a Walter Novellino. Prima della borsa, Pier, ti informo che l'agente di Giroud ha smentito ogni contatto con la Juventus, perché nell'elenco di potenziali numeri 9 futuri della Juventus era stato inserito questa mattina dai giornali anche il francese Giroud. Il suo agente ha detto: non ho letto nessuna notizia che arriva dall'Italia, in questo momento però non ci sono contatti. E allora andiamo in borsa. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Convocati. Higuaín a Napoli segnava perché arrivavano 60 palloni a partita nell'area di rigore. È un calciatore che dovunque è andato non ha dimostrato niente, solo di essere scadente. Alla Juve il primo anno ha vinto il campionato, la Juve vinceva anche con Zaza, così, giusto per... Allora, eccoci qui 800 24 00 24. Carissimo Pier, vorrei introdurre con te il tema della Roma, se sei d'accordo, perché ieri si sono visti i Friedkin per la prima volta, poche parole, addirittura pare che qualche dipendente a Trigoria non si sia nemmeno accorto della presenza dei nuovi proprietari, ancora in città anche in queste ore, di nuovo a Trigoria, altro contatto con la squadra, uno stile mi pare molto sobrio di entrare nella Roma. Sì, potrebbe anche essere una buona notizia, perché secondo me c'è uno slogan: non vendere sogni ma solide realtà, ecco. E diciamo che spesso c'è la tendenza da parte dei dirigenti sportivi, da parte dei presidenti, di così accarezzare le aspettative, le speranze, e poi alla fine c'è poco dietro. Quindi il fatto che ci sia invece questo basso profilo, questo approccio così un po' soft, potrebbe essere anche una buona notizia. Fatti, non parole, adesso vedremo se arriveranno i fatti. È chiaro che non cioè, oggi è molto difficile dare una valutazione. Fare tutto in fretta insieme è molto complicato. Sì, anche sbagliato. Hanno davanti una montagna di lavoro da fare. Il paradosso, lo dico io, il paradosso è che non è detto che il lavoro sulla squadra sia in cima alle priorità, vista la situazione che hanno ereditato. Anche se poi capisco che quella è la cartina tornasole con cui verranno giudicati tra qualche mese. No, ma quella poi non è solo la cartina tornasole, è anche poi il motore di tutto il resto. Perché se la squadra va bene, se conquista un posto, se arriva fra le prime quattro, cosa che in questo momento è tutt'altro che scontata, perché la Roma in questo momento non è nel ranking delle prime quattro della stagione. Beh, però insomma, se conquisti un posto in Champions League, quello significa soldi, significa crescita, significa sponsor, significa entusiasmo. Quindi poi alla fine una società di calcio è valutata sempre soprattutto dai risultati sportivi, quelli poi traghettano tutto il resto. Poi la struttura, gli sponsor, lo stadio, gli asset sono ovviamente fondamentali. Quindi dovranno trovare un bel balance. Io credo che insomma non sia facile, certamente. Hanno anche una sfida dal punto di vista della comunicazione, l'abbiamo detto mille volte, di rapportarsi in maniera completamente diversa da come ha fatto Pallotta con i tifosi, che per me è il peccato mortale della gestione di Pallotta, che è stata una gestione dal punto di vista dei risultati non così drammatica, anche se Palermo non ha vinto, però comunque la continuità di rendimento c'è stata negli anni. Quello che non c'è assolutamente stato è la capacità di capire che il tifoso non è un consumatore, non è uno da trattare come un cliente di un supermercato, con tutto il rispetto, siamo tutti clienti del supermercato, ma è qualcosa di diverso, e questa cosa è completamente mancata. Vedremo se con Pretti andrà meglio. Sì, anche perché sennò, insomma, in questo momento è chiaro che per agli occhi dei tifosi della Roma, della piazza, di qualunque analista, il solo fatto di venire dopo Pallotta significa essere meglio di Pallotta. Anche già nel medio periodo sarà tutto da dimostrare. Guarda, ci scrive un amico: sono curioso di sapere se la nuova proprietà della Roma andrà d'accordo con Lotito, cioè come si collocherà diciamo dentro il panorama variegato del calcio italiano. Ma sì, io sono curioso di vedere che tipo di approccio avrà, perché il problema di Pallotta, oltre alla comunicazione, secondo me era una certa distanza. Le due cose probabilmente sono anche in qualche modo collegate: una certa distanza decisionale, una certa mancanza di presenza fisica. Cioè tu devi avere comunque la società di calcio, lo spogliatoio, la realtà la devi continuamente presidiare. Poi probabilmente avere un occhio dall'esterno che ti fa essere un po' più lucido in certe situazioni, che ti fa analizzare meglio certe situazioni con meno trasporto, con meno emotività, può essere utilissimo. però poi sul territorio ci devi essere, certo. No? Il territorio è la squadra di calcio, è tutto l'aspetto mediatico, che a Roma è sì particolarmente complesso, ma anche particolarmente interessante. Cioè, voglio dire, non è che, cioè, sai che tutta questa storia, non è che la Roma o la Lazio non vincono, sì, per colpa delle radio, dell'ambiente. È chiaro che c'è un interesse, una passione, quindi una quantità, una polifonia di voci che in certi momenti può essere impegnativa sicuramente, ma che può diventare anche una risorsa. Quindi non è per forza, ci sono anche ambienti dove magari non si vince perché c'è poca pressione, sì, ecco, certo. Facendo un enorme salto mortale, sono ambienti magari anni 90, poco allenanti. Il Parma degli anni 90, e sarebbe un giorno carino parlare con qualche ex di quella squadra fantastica, ha vinto forse meno di quello che poteva vincere, proprio perché aveva paradossalmente meno pressione di quella che sarebbe servita. C'era troppa tranquillità. Sai che non so se Giancarlo Dotto, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, è d'accordo con te, Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao Pardo, ciao a tutti. Sono qui, ho ascoltato solo una parte dell'intervento fluviale di Pardo, però tutto quello che ho sentito mi trova d'accordo, in particolare sulla... Ma sai, Roma è, i tifosi, i romanisti sono inguaribilmente nostalgici di presidenti come Viola e Sensi. Viola in particolare, devo dire che avevano da questo punto di vista una presenza costante sulla squadra, sul club, eccetera. Potremmo dire che un salto di qualità c'è stato, nel senso che Pallotta era invisibile nell'assenza, diciamo che i Fredkin sono invisibili a questo punto nella presenza direi, sì. visto che ieri sono stati capaci di, appunto, di essere invisibili, nonostante tutte le prove dicono che fossero lì a Trigoria, tra macchine oscurate, mascherine, eccetera. Ho letto sul Corriere dello Sport che questa sobrietà ti è piaciuta. Sì, mi è piaciuta perché naturalmente agisce, funziona la sequenza. Di fronte alle manifestazioni per 9-10 anni, gli americani hanno scelto uno stile che era quello di confondere con le parole il fallimento dei fatti, e naturalmente a fronte di questo la sobrietà arriva propizia. Non è che in assoluto io sia favorevole alla sobrietà, anzi, però in assoluto questo, ma nella storia della Roma arriva puntuale e necessaria. Direi che i tifosi romanisti a questo punto di pazienza ne hanno ben poche, come scrivevo in un pezzo di oggi. Dalla pazienza all'indifferenza il passo è abbastanza breve, non bisogna sottovalutare questa possibile disaffezione. Ma cos'è la prima cosa, di solito si dice fai una cosa di sinistra, no? Cos'è la prima cosa da romanista che deve fare Friedkin? Una? Beh, l'ha già fatta, quella di farsi vedere. La seconda cosa è quella di non fare promesse, perché le promesse sono il peggior insulto che oggi si può fare al tifoso romanista. Mi spiace che diversi giornali abbiano continuato a parlare di Friedkin come di un presidente che si è presentato promettendo chissà cosa. Lui non l'ha fatto, però evidentemente il tema della promessa è un tema demagogico che serve a vendere giornali. Che funziona, serve a vendere i giornali. Di fatto lui si è presentato con uno stile che è esattamente all'opposto, cioè lui ha detto più volte dobbiamo lavorare, e la parola promessa non l'ha proprio usata, forse l'ha usata una volta ma in un senso ipotetico. Lui ha soltanto detto dobbiamo lavorare e capire bene dove siamo finiti, cercare di essere presenti. Questo a me è piaciuto molto, ripeto, perché arriva dopo le grandi fanfaronate dell'era bostoniana. Esatto, e in questo momento secondo me è proprio la cosa da fare, nel senso che io credo che il pubblico della Roma, se si fa un discorso onesto, se si fa un discorso corretto, sia assolutamente tranquillo e sereno nell'idea di costruire una squadra che abbia un orizzonte temporale di qualche anno, che possa crescere piano piano, che possa divertire, che possa puntare sui giovani. Cioè, non è che la Roma, lo diceva Roncore qualche giorno fa, non è che la Roma ha vinto 25 scudetti o 50 scudetti nella sua storia. La Roma è una tifoseria stra innamorata, che ha vissuto dei momenti speciali e alla quale, secondo me, se fai un discorso onesto e corretto, non c'è nessun problema, non devi vincere il turno prossimo. È in grado di capire che fra quelli citati da Dotto, Dino Viola secondo me è l'esempio assoluto, perché Dino Viola aveva sicuramente una plomb, una signorilità, una distanza che era secondo me molto utile per non farsi troppo condizionare dalle emotività anche della piazza, però poi faceva i fatti. Ecco, quello certo. Che è mancato negli ultimi anni è che sono state fatte 1000 fanfaronate, la distanza era pure un po' troppa, era addirittura oceanica, e però i fatti non sono arrivati. Certo, allora abbiamo il traffico, io vi ringrazio e vi saluto tutti e due, ciao Piero. Ciao. Ci sentiamo con te domenica a partire dalle 17, saluto anche e ringrazio Giancarlo Dotto, ciao Giancarlo. E alla prossima. Allora, abbiamo il traffico, poi ci introduciamo nel weekend di motori. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. We take time with Yamaha because we are not in a hurry and we have something to fix, but we are very close to sign, and I will race with Petronas next year. I want to say 99% because it's not signed, but I think that maybe in Barcelona we can give the announcement. You know, I wouldn't want to miss, and I don't regret the years that I've spent with Ferrari. So they are a big part of my life. Now, probably for both sides, it's time to move on. Weekend di motori molto italiano, tra il Mugello e Misano, molto italiano anche nelle storie che lo aprono, le abbiamo sentite declinate in inglese, ma sono molto italiane anche quelle di Valentino Rossi e di Sebastian Vettel, che ha annunciato ieri che andrà all'Aston Martin. Saluto Giorgio Terruzzi, ciao Giorgio. Buongiorno, buon dia a tutti. Allora, io, a me, un po' malignando, viene da dire che alla Ferrari non ne va davvero bene una, no, in questo periodo, perché poi alla fine anche l'annuncio di Vettel è stato un mezzo sgarbo, perché ha tolto i riflettori dalle celebrazioni per i 1000 Gran Premi, che sono l'unica cosa credo da salvare per Maranello in questo weekend, in attesa. È vero che oggi le libere dicono Leclerc terzo dietro a Bottas e Verstappen, però insomma veniamo da Monza, da Spa, veniamo insomma da weekend che hanno delineato bene qual è oggi il momento di crisi. Ma insomma, credo che la Ferrari lo sapesse da tempo, da un po', che Vettel sarebbe andato alla Aston Martin. Mi sembra una notizia poi così, cioè è una buona notizia per Vettel, è una buona notizia per la Formula 1, probabilmente perché avere Vettel al posto di Perez è più rilevante per tante ragioni. Però insomma, questa qui è una ricorrenza dei 1000 Gran Premi che secondo me va oltre il presente, va, insomma, è una cosa che ha una radice così rilevante dal punto di vista proprio della storia motoristica, persino della nostra cultura, perché c'è dentro un'avventura con un uomo come Ferrari, secondo me da cui storia andrebbe fatta studiare a scuola dei ragazzi, cioè se abbiamo a che fare con una storia molto rilevante. Poi insomma adesso la macchina va male, Vettel va via, va da un'altra, sì, ma sono un po', se parliamo dell'evento celebrativo, che quindi lo sganciamo dall'oggi, non c'è gara, cioè stiamo parlando di una tutto il resto è contorno. Una leggenda straordinaria. Tutto il resto è contorno, peccato che arrivi nel momento più difficile. Io non so se tu vedi qualche segnale che si possa cancellare Monza, che a sua volta doveva cancellare Spa. No, ma insomma qua non è che ci sono, cioè questo qui è uno sport dove non succedono grandi cambiamenti con questi regolamenti, con queste tempistiche, cioè la macchina è quella che è. Probabilmente Belgio e Monza sono state due piste particolarmente negative, adesso bisogna vedere, perché anche questo terzo tempo di Leclerc di stamattina è molto presto, visto sono ancora tutti molto indietro, potrebbe andare meglio, nel senso che potrebbe andare come in Inghilterra, dove la Ferrari era in zona quarto posto, però non è che siamo, una pista può cambiare un pochino a favore o un po' a sfavore, se ci mettiamo dentro anche un po' di rogna, molto a sfavore, però non è che quest'anno ci saranno i miracoli, non ci sono i miracoli con lo sport qua, cioè, se una macchina ha un difetto di aerodinamico di partenza è così, cioè, va così, cioè, lo dico anche per evitare di massacrarci l'anima tutte le domeniche, cioè, sarà così quest'anno, cioè, non è che cambi il mondo, non può cambiare il mondo della Ferrari quest'anno. Sì, la prestazione è quella. Altra storia, quella di Valentino Rossi, lo abbiamo sentito, ha spazzato via le voci che erano girate sul ritiro fine anno, ha detto che insomma è questione di qualche giorno, qualche settimana prima dell'annuncio della firma del contratto. Ti sorprende il fatto che vada avanti e lo rivendichi anche con questa serenità, oltre che con orgoglio? No, ma avrebbe sorpreso una decisione diversa, perché credo che Valentino si diverta più a fare quello che sta facendo che qualunque altra cosa. Vale il discorso un po' della Ferrari, no? Se io sono Valentino, abbiamo già avuto abbastanza, più del dovuto paradossalmente, lui vuol continuare a correre, ha uno standard di prestazione che non è più forse quello che ha dentro, quella scelleratezza da ragazzo che cerca l'ultimo decimo facendo un giro, come dire, a rischio, no? Però non è neanche uno che sfigura. Devo dire che c'è un panorama della MotoGP abbastanza sconcertante, no? Dopo l'assente Marquez, c'è una sorta di ciapanò collettivo nel quale ci sta benissimo dentro anche il Vale, cioè che poi, come dire, la sua vita è quella lì, non sì, perché toglierla? Perché dovrebbe togliersi? Guarda, io sono abbastanza d'accordo con Pasini, che ha detto oggi, credo sulla Gazzetta, se si deve ritirare lui, almeno altri 15 piloti della MotoGP dovrebbero mollare. Sì. È una sintesi abbastanza dura, ma credo anche abbastanza corretta. Sì, ma poi sto dicendo, non è mai un problema anagrafico, in tanti mondi, in tanti mestieri, no? Cioè, ci sono delle persone che mantengono una freschezza, un entusiasmo, una voglia di fare che li porta ad andare avanti. Poi non vincono il campionato del mondo, vabbè, pazienza, ne ha già 29, e se non vince il decimo non succede niente. Cioè, abbiamo avuto 9 mondiali, 10 anni di sciambola con Valentino, siamo sempre a parlare di lui perché in qualche modo continua ad essere una figura dominante. Basta guardare cosa succede in tribuna con le vendite di biglietti, cosa succede nei social, è per una serie di ragioni una figura eminente. In più ha frizzato, io lo dico sempre, la propria adolescenza, per cui ha sempre un aspetto, un modo di fare, una lucidità e una goliardia che lo, come dire, non mutano sostanzialmente, non segnalano una fatica, un affanno, però si continua. Io sono ben contento. Perché deve ritirarsi? Grazie Giorgio. A voi, buona giornata. Grazie a Giorgio Terrucci, voce storica dei motori e della Formula 1. Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è in diretta, rigorosamente, domenica, con tutti i convocati weekend a partire dalle ore 17. Ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.